5 euro. Beh, devo dire, siamo in onda. Mica male come pezzone prima di cominciare. Niente di niente. Ma pochissimo. Pochissimo. Alzati. Adesso sento di più. Sei alzata. Ehi. Secondo me è solo una questione di cavo. Ma infatti sì, guardalo che infatti adesso mi sento. Sì, adesso sì. Va molto meglio adesso. Adesso va molto meglio perché mi sento. 19.04, appena scoccato 19.04, siamo e su oggi è il 7 di dicembre, tutto vedi list, che tutto per voi, 7 di dicembre. 7 di dicembre, puntata numero? Puntata numero 4. 4 a questo punto. Cioè, senza neanche proprio... Incredibile. Come ti volti di giro è passato un mese. Tra l'altro sono molto contenta, a parte che sto tirando col piede dei cavi, che spero che non siano importanti, se no salterà in aria tutto, ma comunque... Minchia, vedo del fumo in fondo. Esatto, sì. Esattamente. Solo per aver staccato dei cavi, tra l'altro. No. Del fumo. Voglio riperire dello sballo, insomma. Esatto. Esattamente. Solito. No, tra l'altro sono entusiasta perché a distanza di poche settimane, che comunque siamo alla quarta puntata, quindi oramai sono passate 3 settimane dalla prima, e vedo considerevolmente crescere la parte dedicata agli eventi in persona. Vero, confermo. E questo mi riempie di gioia perché vuol dire che ci siamo quasi. Ovviamente noi non smetteremo questa bellissima trasmissione. Anzi. Perché la trasmissione ovviamente è già arrivata su Radio ZM quando non si chiamava ancora To Do List, quando il lunedì ci si ritrovava prima del Covid a raccontare quelli che sarebbero stati gli eventi settimanali. Noi abbiamo semplicemente plagiato completamente, fatto un quando, esatto, quando ancora l'assembramento si chiamava piazza. Esatto, ed era Gogliardi, che era bello, era tutto. Tornerà, lo sappiamo. Questo programma non smetterà, ha semplicemente trovato un nome. No. Esattamente. E una sigla fantastica. E una sigla veramente riuscita, come recita il nostro posto. A questo punto mettiamo questa meraviglia di Craig David, che è lì in fondo. La vedo. La vedo. No, vedi? Vedi, non può essere trovata perché è troppo riuscita. Abbiamo esagerato. Come ci piace sempre esagerare. E quindi praticamente dobbiamo reimportare la nostra sigla. Pensa che c'è il momento qua online. E possiamo dire anche a questo giro il bello della diretta. Il bello della diretta. 19.06, che giorno è? 7 di dicembre, ragazzi. Craig 7 days. David, tutto per voi. Call me Monday, took her for a drink on Tuesday. can't get her off my mind. She's one of a kind, and I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. Ehi, siamo tornati dalla sigla e siamo tornati moltiplicati. Cioè, è bellissima questa cosa. Anche esponenzialmente, tra l'altro. Buonasera! Evviva! Buonasera a tutti e tutti. Oh buonasera. Mio Dio, è incredibile! È incredibile! Sono molto contenta. L'ho sentita in un video questa voce oggi. Eccoci qua. Allora, è il 7... Brava, dillo perché... Sono le 19:10, siamo in diretta. Oh, bravissima quella che sentite. Ovviamente è la voce ormai celeberrima di Svezia. E all'altro microfono ci ha raggiunto Silvia. Io sono molto entusiasta di questa cosa, soprattutto perché, vista la presenza di Pica, non se l'aspettava nessuno, perché sappiamo tutti che la gente non viene perché c'è Pica. E quindi invece sfidando questa cosa sono venute anche le due compari diciamo microfoneggianti speaker radiofoniche d'eccellenza, così ho detto delle parole a caso. E va bene. Sono bellissime. Ricky dice delle cose in radio. Intanto arrivano messaggi dalla chat di Telegram, che vi ricordiamo è Radio Zam _ Bravo, chat. Dillo. Potete cercarla, un'icona identica a quella della radio con un contorno rosso. Non so chi l'abbia fatta, penso Riccardo. Che ci scrive delle cose che hanno senso, ma che in realtà non c'entrano niente adesso, perché gli abbiamo chiesto degli eventi. Questa è To-Do List, Riccardo, sono le 19:11. Grazie comunque Riccardo. Del, che giorno è oggi? 7 dicembre. 7 dicembre. Ma lo diciamo che cos'è oggi? Perché non è un giorno qualsiasi per i milanesi questo giorno. È vero. Diciamo. Io so che... Pesce, sta chiamando Pesce in radio. Il Pesce sta chiamando in radio, è zona rossa. È zona rossa da un momento all'altro. Pesce? Ciao, sei su Radio ZM. Vai tranquilla, sei sulla radio, Radio ZM. Sei in diretta, radio Pesce! Di Milano Sud, sai, quella che spacca. Perfetto! Ma tu stai venendo, ci stai raggiungendo volendo anche in radio? Ma sono in diretta, mi stanno ascoltando tutti? Sì. Tipo 600.000 persone. Oddio, siamo tanti! Botto. Siamo una moltitudine, esattamente. Si vede la fine. Senza nemmeno sapere che cosa potrò dire. Beh no, ma non ti dovevo chiedere qualcosa in particolare. In realtà la tua chiamata è arrivata nel momento in cui sono qua con Boots, Lore e Sveva in radio. E quindi niente, ora niente, siamo qua. Ciao Gabi. Ah, ok, ciao. Questa è Sbriscis, per chi non l'avesse riconosciuta. Esatto. Ci vediamo di Gerbilli. Esatto. Brava, parli. E Buzzi, okay. Che è un ultimo animale di quelli che ravanano nella monnezza. Sono tutti animali che amo molto, tra l'altro. Allora Bish, ci vediamo più tardi. Allora. Ciao. Dai. Questo era l'angolo dei mustelidi. Salutiamo Pesce. Questo era l'angolo dei mustelidi in compagnia di Besce del Legno. Dici che giorno è per i milanesi, Chiara, oggi. Che giorno è? Oggi è Sant'Ambrose, raga. Ah, no. Oggi è Sant'Ambrose ed è uno dei primi Sant'Ambrose che passiamo lontani dal cavalcavia Bussa, su cui normalmente sentiamo la soave e vellutata voce di Ian urlare "Vi brule!". Oggi devo dire che il post che ha scritto Giacomino mi stava facendo piangere. Allora, io non l'ho letto, ma... Sì. Io non l'ho letto, ma sono d'accordo. Non so, nel dubbio sono d'accordo. Esatto. In generale non si può dubitare della nostalgia con la quale pensiamo a Jan e al suo vin brûlé e agli Alter Bay. Madonna raga, del freddo che si prende tutti gli anni, è bellissimo. Della techno bellissima che viene mandata ogni volta. Io sono davvero malinconico, oggi l'ho sentita molto, un po' per il post di Giacomino che poi vi leggeremo in diretta, o ve lo leggerà lui addirittura, perché ha detto che passava. Ma non perdiamoci perché abbiamo esattamente solo 46 comunque minuti. Ricordo, per chiudere tutto to-do list numero comunque 4. Io ricordo con ben più gioia i compagni della Rap Caverna Posse piuttosto che la tua techno da panca bestia, quindi giusto, niente. onesto, perché lo sappiate. Viva, però techno, vabbè, viva ci sta. Rap Caverna Posse, viva tutto, ci sta, ci rifaremo l'anno prossimo. Ci rifaremo, esatto. Chiara, dici. Allora, io intanto inizierei, oggi abbiamo una rielaborazione oggi c'è una rielaborazione del format, nel senso che ci sono dei pezzi diversi dal solito. In realtà si parte sempre comunque con oggi, quindi con gli eventi che ci siamo, diciamo, persi, ma per un istante, che possiamo recuperare non appena finita questa puntata. Si passa poi ai prossimi giorni, ma in realtà ci saranno poi un focus specifico, perché questa settimana ricade un'altra ricorrenza, oltre a Sant'Ambrogio, un'altra ricorrenza piuttosto importante per la città di Milano, perché il 12 dicembre è alle porte e quest'anno sono 51 anni dalla strage di Piazza Fontana, e quindi vedremo che ci sono un sacco di cosine, diciamo, sia allo schermo che in persona col freddino, e da animare e da, come dire, attraversare. Da dargli voce, insomma. Da dargli voce. Quindi direi con la giornata di oggi ci sono due incontri che avevamo in realtà già raccontato nei giorni scorsi, ma per il primo, che invece non è ancora già stato raccontato, ma che ci è stato proposto golosamente da Piccarazzi, io avrei bisogno di una di un intro musicale. Potresti coadiuvarmi per favore in questa cosa? Guidami. Guarda, ti metterei questo qui. Questo che sì, questo qua, capito? Siamo proprio sul pezzo. Arriva il contributo musicale vocale, esatto, vocale, così esatto. Entriamo proprio nel vivo. Bravo. Questa gente che si cominciarono a chiamare i ciò. In piazza cominciano ad arrivare gli operai, i lavoranti, i battilana, come dicono loro. Tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza. La marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori. E chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi, dei grossi proprietari di industrie, di aziende, dei giudici, dei giuristi, che sono stufi di questo governo largo. La gente lo sa, li conoscono per nome, Messer Lapo da Castiglionchio, giudice. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa. Degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa. Tutte famiglie, sì, di popolo in teoria, ma in realtà traditori. Il furore dilaga in città. Dove si va? Alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati. Andiamo a bruciargli la casa. Che vuol dire chiaramente, secondo noi il governo è corrotto e traditore, la giustizia è traditrice. Andiamo a bruciargli la casa. Ci dà l'assalto. Chiara sta morendo. Allora, io apprezzo ogni volta di più che l'ascolto questa cosa, cioè man mano che cresce l'autotune nella mia testa proprio parte un'adrenalina veramente notevole. Allora, tutto questo perché lo dicevamo? Dicelo tu, Svezia, a che cosa ci rimanda questa traccia? Ci rimanda degli appuntamenti che possiamo trovare nei prossimi giorni in giro, ricordiamo ovviamente per via telematica, perché purtroppo con questo con il coronavirus non si possono più fare eventi pubblici. Non ancora. Esatto. Esatto. Ci stiamo avvicinando. Niente, questo è il canale attraverso cui si possono fare, si può partecipare. Inizierei da oggi e si parla dell'intervista in diretta al prof. Alessandro Barbero, pandemia nella storia. Esatto, andiamo a bruciargli la casa. Cioè non di Barbero, no, ovviamente. No. Barbero no. Comunque con lo storico Alessandro Barbero si parlerà di pandemie di ieri e oggi. Si cercherà di capire se le esperienze che stiamo vivendo oggigiorno a causa della pandemia del coronavirus sono paragonabili a quelle dei nostri antenati durante le grandi pandemie del passato e cosa possiamo imparare dal passato per non ripetere oggi gli stessi errori di ieri. Ottimo, ottimo, ottimo. È appena terminato questo incontro, ma si può recuperare? Dove si può recuperare? Ricordiamo sempre che tutti gli eventi online sono registrati molto spesso. Esatto. Anzi, nello specifico, niente, ma guadagnate un archivio. Esattamente, nello specifico in questo caso non c'è solo Facebook, ma c'è addirittura YouTube. Quindi, come dire, le cose sono molteplici, i canali sono molteplici. Ed è un incontro della Cambridge University Italian Society. Quindi, se volete recuperare questa ennesima perla, se siamo sicuri, di Barbero, eventualmente è appena andata in onda sulla pagina della Cambridge University Italian Society e sull'omonimo canale YouTube. A questo punto passerei al secondo, senza tergiversare. Ce lo vuoi leggere comunque tu? Sì, esatto, Svezia. Esattamente. Allora, percorsi di lettura con Mauro Ruggero. Secondo appuntamento, quindi il primo evidentemente c'è già stato, ma l'abbiamo visto settimana scorsa, esatto, infatti, e si può sempre ripescare sui canali social. Ogni lunedì dalle 19 autrici e autori della nostra casa editrice racconteranno i libri degli altri. Appunto, ricordo anch'io di aver parlato di questo settimana scorsa. Sarà l'occasione per affrontare il tema dei saperi di confine, scienza, cultura ed esoterismo, in compagnia di Mauro Ruggero. E, negli ultimi anni l'esoterismo occidentale è diventato una vera e propria materia accademica che studia come le scienze occulte e i saperi di confine, tra virgolette, abbiano influenzato la cultura occidentale. Lo scrittore parlerà di Passi sulla via iniziatica, il 97 di Emilio Servadio, e diversi altri autori, insomma, e scritti. E questo dove lo troviamo? Questo lo troviamo in diretta da 20 minuti, quindi dalle 19. Quindi recuperatelo. Confermo, perché mentre switchavo come un teenager prima ho visto l'evento. Il buon Riccardo Burgazzi, che salutiamo, di Prospero Editore, grande Riccardo, grandi, che sta tenendo lui grandi, in questo caso, no, questo percorso. Esatto. Sì, sì, ragazzi di... sulla pagina di Prospero Editore. Ragazzi di Prospero Editore sono ottimi, tanta seguitelo, roba, seguiteli a prescindere dai percorsi di lettura, ma seguite io anche. Non lo dico, ma lo dico, i, ho già i fatto percorsi di lettura. Un abbonamento di Q-Code come regalo di Natale. L'ho detto. L'hai detto, non lo dico dici, ma l'hai detto. Dico a chi, l'ho detto. Però. Ok, quindi qualcuno saprà già, spoilerato male, esatto, malamente, esatto, il... Esatto. E qualcun altro invece ci rimarrà male perché avrà pensato che era per te, era per sé, e invece niente. Pensa che persona sei. Pensa a te. Per il prossimo io chiederei di leggerlo in realtà o di presentarlo alla specialista del settore, Lammo. Eccomi. Dici. Allora, molto volentieri, ricordo un appuntamento che c'è stato questa mattina ma che tutti e tutte possono ascoltare, al quale possono assistere tutti i lunedì alle 11 di mattina. L'organizzatore e l'organizzatrice di questo evento settimanale è l'associazione Antigone, un'associazione che si occupa di carceri, giustizia, diritti umani e di prevenzione della tortura all'interno del contesto penitenziario dal 1991, e ogni lunedì propone un incontro di approfondimento aperto per parlare della situazione delle carceri in questa seconda ondata, ma in generale nel contesto del Covid-19. In particolare, appunto, questa mattina si è tenuto un incontro riguardante il tema della scuola in carcere ai tempi del Covid-19. È stato un incontro tenuto con Edoardo Albinati, che è scrittore vincitore del premio Strega e dal 1994 comunque insegna all'interno del carcere di Rebibbia. E in questo senso, appunto, ricordo che ogni settimana è possibile prendere parte a questo incontro, nel quale si approfondisce appunto la questione delle carceri, del numero dei detenuti e tutta una serie di situazioni interne alle carceri in questa, nel contesto di questa pandemia. Infatti questo è, tra le altre cose, un incontro interessantissimo che ci ha proposto la buona Silvia tempo fa e che grazie a questa dritta siamo riusciti a recuperare, e a maggior ragione coglierei l'occasione per invitare tutti e tutte e a fare altrettanto, quindi sulla nostra pagina, sui profili stalkerizzabili di ognuno di noi, ma in realtà comunque insomma fateci sapere se c'è qualcosa di particolarmente interessante, lo mandiamo volentieri. Io coglierei questo passaggio fra l'oggi e i prossimi giorni per omaggiare qualcuno che compie gli anni. Decidi tu chi, vai, guarda, pica. Facciamolo, abbiamo deciso oggi di iniziare anche a surfare, quindi vi metteremo, perché stiamo andando un po' spediti, vi metteremo i brani e dopo un minuto e mezzo inizieremo a andare avanti a parlarci sopra. E oggi io lo scelgo, ma tu ne dici due paroline. Ho cliccato. Allora, oggi non so che giorno, aspetta che controllo che giorno è il compleanno. Aspetta, ce l'ho qua sotto. Nell'ultima parte. No, ce l'ho, guarda. Allora, praticamente l'11 dicembre del 1944. Attenzione. Nasceva niente po' di meno che Giannone Morandi, nazionale. Proprio lui. Giannone Morandi nazionale, e di cui ovviamente sono ben note un sacco di canzoni, oltre che un sacco di gusti personali e storie e aneddotica varia. Nello specifico noi abbiamo scelto di mettere C'era un ragazzo che come me, che comunque tutto sommato rimane una delle tracce più no war, come per dirla in inglese, senza motivo, tra l'altro, così, vabbè, così senza assolutamente nessun tipo di motivo, però appunto una canzone che ha fatto abbastanza la storia, anche nonostante noi adesso pensiamo come un po' il volto del popolare, del popolare nazionale, in realtà è stata anche, ha fatto anche abbastanza, diciamo, un bel rumore quando è uscita, tant'è che l'hanno dovuta censurare in alcuni, sì, è vero? Confermo. Ricordi anche tu questo aneddoto? Il Gianni, quindi vabbè, insomma, aspetta. Gianni, puoi metterti, sì, accomodati, vieni. Sì, è arrivato Gianni. Ciao Gianni, è arrivato Gianni, saluta. Lui si copre la bocca con le mani quando starnutisce e copre i 15 metri intorno e quindi niente, dopo questa battuta banale, patetica. Chiediamo all'ensemble di partire pure con la base, grazie. Grazie mille, ci ciao. Sentiamo fra pochissimo. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, m'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù nel suo paese. Grazie Gianni, auguri. Auguri in anticipo, che non si fa mai, non si fa mai, tra l'altro. Però vabbè. Vabbè, insomma. Noi ora possiamo fargli. Tanto non ci può dire niente, papà. Allora, passiamo ai prossimi appuntamenti, perché già a partire da mercoledì c'è un altro evento online, c'è un evento, insomma, un'assemblea in realtà. Esatto. Vai, diteci. Allora, il 9 dicembre, mercoledì, c'è l'assemblea pubblica di Non Una di Meno a Milano. E ricordiamo che sono appena passate le giornate del 25 e del 28 novembre contro la violenza sulle donne. E Non Una di Meno che insomma ha guidato queste giornate di lotta, poi mercoledì si riunirà un po' per fare i conti con quello che poi sarà il risultato di queste due, quello che poi è stato il risultato di quelle due giornate, e ci si riunisce appunto in assemblea per scambiarsi impressioni e valutazioni sulle giornate e per insomma pianificare anche poi il futuro. I dati ci dicono che solo il 25 novembre 3 femminicidi sono avvenuti, insomma. E niente, quindi ci si vede mercoledì 9 dicembre dalle 19.30 in assemblea online. Per chi è iscritto in mailing list ci sarà il solito link. Altrimenti basta inviare una mail a nonunadimenomilano@gmail.com. Mi raccomando, Non Una di Meno Milano, @gmail.com, per chi non ha ancora fatto parte di questo percorso, insomma, è bilancio, ma è anche prospettiva. Ci saranno 10, 20, 100.000 nuove date e speriamo di parlarne presto, anche diciamo di riparlarne presto anche di quelle dal vivo. E sono sicura che succederà. In realtà già la settimana scorsa, per fortuna, questi eventi dal vivo hanno riempito un pezzettino della nostra trasmissione e siamo contenti di averlo fatto. A questo punto il prossimo incontro è un incontro. Chi ne vuole parlare di questa cosa? Vuoi dircelo tu, che sei il giovane maestranza? Giovane maestranza? Sta parlando con me? Dai. No, sta parlando con me. Attenzione, ero impreparato, perché vi ricordiamo che sulla pagina Facebook di RPZM, vi ricordiamo anche che sono le 19.31 del 7 di dicembre in tutto questo. To-do list, quarta puntata, è entrata una star in questo momento in radio. Sono molto contento. Adesso lo andiamo a prendere, finisco perché sennò mi perdo i pezzi. Su Radio ZM, sulla pagina, ogni lunedì dopo la puntata potete trovare, se riusciamo a farlo, perché qui siamo uno sopra l'altro praticamente, non in senso di vicinanza, in senso di teste, nel senso di solidarietà, in senso di eventi, ci sono troppi eventi uno sopra l'altro, e troverete un post dove potete cliccare sui tag che minuziosamente prepariamo durante l'arco della puntata. Quindi in questo caso io stavo facendo quello che brutalmente viene chiamato social media manager. Mamma mia, SMS. Quindi, sbaglio è no, questo. MSM. È proprio lui, è proprio maestranza. Lui. Allora, io brutalmente leggo, ma cerco di darmi un tono. Vai. Confrontiamoci tra realtà e individualità, assemblea, tecnici e maestranze. C'entrano i lavoratori dello spettacolo. C'entrano proprio loro. Proprio loro. Quindi abbiamo un LLSL. Che sta per lavoratrici e lavoratori dello spettacolo Lombardia. Non si è fermata. Dal 30 maggio è stata parte costitutiva del coordinamento spettacolo Lombardia. Un processo che agli occhi esterni non è risultato forse chiaro. Semplicemente ci si è uniti per condividere competenze e intenti, per far sì che la nostra voce fosse ancora più grossa. Vogliamo confrontarci per ipotizzare cosa succederà nel prossimo futuro? Abbiamo ancora intenzione di rimanere in questo settore lavorativo? E io me lo chiedo ogni giorno, non sto scherzando. Quali sono le nostre impressioni rispetto alla questione legate ad una riforma del settore? Che cosa cambi? Cosa vogliamo cambiare? Cosa vogliamo togliere? Cosa vogliamo aggiungere? Cosa pensiamo di tutti i movimenti che si sono creati in questi mesi? Secondo noi sarebbe utile confrontarci in un'assemblea online regionale dove le singole e i singoli, chi fa parte di movimenti, sindacati, confederali di base, insomma, chiunque faccia parte di questo ingranaggio fondamentale per la riuscita di un qualsiasi evento. Siamo una classe di lavoratrici e lavoratori. L'assemblea sarà online questo mercoledì alle 20.30, quindi io salterò zona rossa e andrò a questa assemblea. Aha. Ah, bravo. Il magico ha deciso di lasciarci di già. Ciao, sì, mangiamo. Tutti, Madonna, raga, è un supereroe davvero. Mercoledì. Cioè, c'ha anche la maglia da supereroe. Io esatto. Piango proprio. Mercoledì 9 di dicembre alle 20.30 c'è il link di Zoom sull'evento nella pagina Facebook lavoratori e lavoratrici dello spettacolo Lombardia. Perfetto. Nel prossimo incontro ce ne vuole parlare Silvia, magari? Non so, la butto giù. Assolutamente sì. Si parla della presentazione online di L'educazione di un fascista di Paolo Berizzi. Paolo Berizzi, che da anni comunque indaga sulla rinascita delle organizzazioni di estrema destra nel nostro paese, si mette sulle tracce di un fenomeno tanto diffuso quanto sottovalutato, che è il ritorno dell'educazione fascista. Dal nord al sud Italia, appunto tutte le regioni sono attraversate da una tendenza ormai visibile e capillare, capace di modellare i costumi e la mentalità attraverso potenti suggestioni. C'è una rete di palestre in cui gli sport da combattimento si usano per allevare picchiatori, militanti, uomini nuovi. Sono tornate le colonie estive per insegnare l'ordine e l'obbedienza ai bambini. Inquietanti formazioni neofasciste indottrinano i giovani soldati politici per presidiare le curve degli stadi, le scuole, le associazioni e le piazze. Quindi questa è la presentazione del nuovo libro di Paolo Berizzi, che ricordiamo avere subito anche in seguito a tutta una serie di reportage su alcune di queste enclave di neonazisti, svariate minacce di morte anche dentro casa sua. E quindi questa cosa succede giovedì 10 dalle ore 18 in diretta sulla pagina di Ampi Provinciale Milano. Vuoi proseguire tu, Svezia? Quello così? Tuo è bellissimo. Quello tuo è bellissimo. Non lavoro venerdì, me lo guardo. Non puoi guardarlo. Tu no. Vai tu. No, vai. Io devo andare avanti col post di Facebook. Va bene, volevo ascoltare la tua voce bellissima. No. Comunque, continuiamo. Voce. Speculare. La bolla olimpica. Ecologia in università. Volume 6. Dopo Expo 2015 e Matera Capitale Europea della Cultura 2019 arrivano le Olimpiadi Invernali, organizzate fra una città che non ha le montagne e un paese di montagna senza autostrada né ferrovia. La formula olimpica segue quella di tutti i grandi eventi: devastazione ambientale, cattedrali nel deserto, buchi e speculazioni per milioni di euro. Il tutto sostenuto da una narrazione comunitaria fasulla, colorata e furbetta. Come le Olimpiadi incide sui territori che abitiamo e su che modello di città-evento questa si innesta? Ne parliamo con Off Topic Milano attraverso la presentazione del libro La Bolla Olimpica. E questo evento organizzato da Ecologie in Università e CUR, Collettivo Universitario Refresh di Trento. L'evento si terrà venerdì 11 alle ore 18 in diretta Zoom e il link lo si può trovare all'evento su Facebook. Ecco, anche questo secondo me vale la pena, anche perché i compagni di Off Topic di solito fanno un lavoro di ricostruzione veramente minuziosa ed è comunque sempre un piacere ascoltarli. Adesso non lo so nello specifico chi se ne è occupato, ma diciamo che in generale si piglia sempre bene. A questo punto il prossimo lo leggo io, in quanto lavoratrice nei musei. Che ridicolo. In quanto cassa integrata nei musei. E niente, in realtà è un incontro che ho sbirciato perché ho visto che diversi miei colleghi ben più colti di me in materia se lo sono appuntati, e quindi io lo sponsorizzo, anche se temo che, ahimè, non lo vedrò, perché trattasi di una data un po' comunque piena, che è quella del 12 dicembre, ma ripeto, come al solito, ci sono sempre tanti materiali che si trovano online, quindi noi lo sfruttiamo a dovere e quindi magari me lo andrò a recuperare. L'evento si chiama L'Atelier Museo Convegno Online. L'idea è quella di provare a ridiscutere le strategie comunicative, le modalità di comunicazione e di trasmissione della cultura all'interno dei musei. È un percorso che era già stato pensato, ma che a maggior ragione si come dire, si ha spazio per essere sviluppato in un momento come questo, in cui i musei sono ai noi chiusi e probabilmente lo rimarranno fino al 15 di gennaio, considerato che sinceramente parrebbe che non gliele batta un belino a nessuno all'interno degli enti governativi. Ringraziamo il ministro Franceschini per la sua brillante e come dire, lungimirante gestione della cultura in questo paese. Detto questo, l'idea è quella di avviare una riflessione ed un tavolo di lavoro che diventi appuntamento stabile nell'offerta formativa del museo come ente coordinatore e raccoglitore ideale di studi e sperimentazioni, quindi non più soltanto una stanza con dentro delle cose da vedere, ma per l'appunto un utile ricettacolo di iniziative culturali che fondamentalmente parlino a diversi strati di popolazione con linguaggi diversi e modalità diverse. Quindi in realtà l'incontro è organizzato dal Museo Canova, che ha tirato insieme un buon numero di panelist, e dalle 9.30 alle 15.30 di sabato 12 dicembre la giornata viene condotta su StreamYard, che personalmente non ho la più pallida idea di cosa sia, ma mi fido. È una piattaforma che bypassa anche su Facebook, viene usata per fare lo streaming. Poi puoi decidere dove mandarlo. Anche noi usiamo streaming quello. Sì, StreamYard. Ringraziamolo, tra l'altro, per le dirette Facebook. Radio ZM Collettivo ZAM. Esatto. Vedi. Quindi niente, su StreamYard, se sapete che cos'è, se no comunque sui canali social di Museo Canova. Questo 12 dicembre dalle 9.30 alle 15.30. Non so chi voglia dire il prossimo. Temo che sia tu, Svezia, perché forse la Lama in questo momento non ha il testo. Sono un po' impossibilitato. Esatto, perché quello stolto di Picarazzi sta continuando a fare gli affari suoi. Vero. Maledetto. Allora, dici che cosa c'è, perché anche questo secondo me è veramente valido. È un, tra l'altro, aperta parentesi, è un incontro che diciamo è organizzato da Resilient Gap, che è una realtà con cui noi abbiamo già avuto modo di condividere dei percorsi qui a ZAM per tutto quello che riguarda l'ambiente, ed effettivamente a suo modo anche in questo caso di ambiente si parla, anche se dici un po', Svezia, perché non me lo ricordo benissimo. Certo, allora, si chiama Resilient Web Talks, Rojava, ecologia e liberazione delle donne. Probabilmente si parlerà di come lo sfruttamento dei corpi e degli individui e lo sfruttamento della natura potranno essere correlate tra loro attraverso alcune teorie nuove che riguardano nuove popolazioni. Nuove vecchie, in realtà vecchie ma non tanto conosciute secondo me, perché quando ne parlo in giro tendenzialmente la gente non conosce. Però stiamo parlando del Rojava, in realtà sono popolazioni del Rojava, tendenzialmente del nord-est della Siria, e da cui è nato il confederalismo democratico, che è un sistema di auto-organizzazione, di autogoverno attraverso cui si mira alla liberazione della donna e l'incentrare tutta una comunità, quindi c'è anche il senso di identità comunitaria all'interno dell'ecologia, insomma. Parole sante. Quindi in realtà, come dire, lotta contro il capitale, è lotta contro individualismo, è lotta ecologica e lotta al patriarcato. E a questa cosa partecipano appunto gli organizzatori, che sono i ragazzi di Resilient Gap, ma anche Rete G Milano, che insomma è uno spazio politico abbastanza rilevante che sta costruendo tantissimo da diversi anni a questa parte. Quando tutto ciò? Domenica 13 alle 18 in diretta dalla pagina Facebook e sul canale Twitch di Resilient Gap. Capito, Twitch. Musica! Twitch, che abbiamo scoperto la volta scorsa che cos'era. Pensa che oramai, guarda, c'è un momento di alfabetizzazione informatica in questo programma che è proprio Zuckerberg, levati. Proprio levati. Sì, vuoi mettere della musica? Voglio mettere della musica. Vai, anche se sotto c'è un Jamiroquai che è una crema proprio. Madonna mia. scusate. E andiamo avanti perché Chiara ovviamente mi sorprende sempre, sempre. Non finirà mai di sorprendermi, soprattutto con la selezione musicale. E non lo fa neanche apposta perché i compleanni non sono i suoi. Cioè in realtà i compleanni sono di altri. E domani è un giorno molto importante. Io voglio giocarmi questa carta. Vai, giocatela e dici tutto tu, perché a sto punto cioè così. Praticamente io sinceramente non me lo ricordavo, ma ho avuto il piacere di riscoprirlo. È il compleanno di Jim Morrison domani. L'ho detto. Ecco, l'ha detto. L'ha detto così. È il compleanno di Jim Morrison. Allora mi è saltato subito in testa un brano che è contenuto in un disco molto particolare, perché è un disco che si chiama An American Prayer ed è stato pubblicato, è il nono disco dei Doors, targato Doors, ma è stato pubblicato 5 anni dopo lo scioglimento della band, e come tutti e tutte ricordiamo la band si è sciolta con il suicidio di Jim Morrison. E quindi siamo in una situazione in cui tutti gli altri musicisti nel 73 decidono di ritrovarsi e iniziare a registrare un album utilizzando e quindi sovrapponendo la voce registrata di Morrison mentre legge delle poesie, esattamente l'8 dicembre del 1969, quindi il giorno del suo compleanno. Omaggiarlo così. Esatto, decide di leggere queste poesie, viene registrato, e loro nel 73, quindi 8 anni dopo, 5 anni dopo, anzi 4 anni dopo, decidono di incidere questo disco che diventa disco d'oro e successivamente disco di platino. Ora io vi propongo The Ghost Song, perché secondo me è una delle più belle, spero vi piaccia, e poi ci parliamo sopra. Yeah. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. They croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Ci stiamo ascoltando dappertutto, guarda, esatto. 7 dicembre, ciao Jim, grazie, ci vediamo nel prossimo sogno, è stato un piacere. Madonna, American mia. Prayer, The quanto Ghost sei Song. Indie anche in quando sempre, parli così, guarda. E senti, invece di fare l'indie mancato, per favore, cortesemente, dacci delle news rispetto a quest'ultimo coso che io apprezzo molto, tra l'altro. perché l'hai proposto tu, ma esatto. Ovviamente oggi, mentre molto. Mi sono dedicato un paio d'ore per ricercare i venti, mi capita questa sotto mano e io non posso che non girarlo, perché Antonio Rezza e Flavia Mastrella in live streaming dal Teatro Vascello. È interessantissimo come due personaggi del genere possano rapportarsi alle dirette streaming. Ma cosa si saranno inventati, questo non lo so, lo potremo scoprire. Loro sono dei personaggi, cioè, raga, per chiunque non li totali. Conosca, andatevi a recuperare Rezza Mastrella, che è un duo veramente fatevi notevole. Fatevi lo stomaco, il pelo sullo stomaco, ci vuole, perché ci vuole. Si raggiungono dei livelli altissimi, e lo potrete scoprire sabato 12 dicembre alle 21, perché la sera, e domenica 13 dicembre, quindi sabato e domenica dovreste essere in 50 posti o comunque con 5 computer collegati a 50. Esatto, in questo caso tra l'altro c'è un'istruzione per l'uso rispetto a come partecipare a queste dirette. Nel senso che il live streaming è su una piattaforma di Zoom su cui bisogna prenotarsi e ci sarà un numero massimo, che è quello di 100 contatti, che io spero per loro che arrivino, perché sono veramente notevoli. Tra l'altro Rezza è stato anche ospite a POQ di quest'anno, al POQ online, esatto, di quest'anno, che conosciamo benissimo, tanto sudore per quel che ringraziamo e salutiamo anche tutto lo staff, Madonna, ragazzi, tutti i ragazzi di POQ, che ci hanno fatto compagnia durante il primo lockdown, perché la monumentale opera che è stata messa su per riuscire ad arrivare nelle case di compagni e compagne, amici e amiche, e portare il POQ anche quest'anno nel primo lockdown, quello più duro e puro, ha funzionato. Secondo me ha funzionato, è stata una bellissima diretta e c'era anche lui. E c'era anche Rezza, ed effettivamente cosa fanno Rezza Mastrella? Si sperimentano online per la prima volta, e quindi secondo me ci va buttato un occhio. A questo punto io passerei, perché il nostro gloriosissimo programma questa settimana ha un focus specifico, perché per l'appunto lo dicevamo all'inizio della puntata, ma lo ridiciamo adesso, come dire, c'è un momento veramente importante della storia di Milano, che è sabato, che è il 12 dicembre, in particolare il 12 dicembre del 69, la strage di Piazza Fontana. Quest'anno ricorre il 51esimo anniversario, e come dire, di eventi a ciò legato in realtà ce ne sono parecchi, quindi siccome ce ne sono parecchi noi proviamo a sintetizzarli così. Ce ne sono tre nei giorni precedenti, che adesso chiederò a Svezia di svelarci, e in realtà poi racconteremo che cosa succederà in piazza, perché in realtà ci sarà fortunatamente anche una parte live and direct dalle piazze. Attenzione! Allora, dici un po', Svezia, ci sono tre incontri, se non erro, quasi tutti di giovedì 10. Tra l'altro. Sì, tra l'altro, giovedì 10 dicembre alle 18.30 in diretta sulle pagine di Piano Terra, Laboratorio Lapsus, e sul canale YouTube di Laboratorio Lapsus, troviamo Piazza Fontana, 50 anni dopo le bombe di Stato. 51, se posso permettermi. 51 anni, sì, scusate, sono un po' mio. 51. 51 abbiamo detto prima. Sarà appunto il 51esimo anniversario della strage del 12 dicembre del 69. E insieme agli autori si organizzerà la presentazione del libro Dopo le bombe, Piazza Fontana e l'uso pubblico della storia. È un saggio plurale, frutto del lavoro di ricerca di tre generazioni di storici. Diversi li conosciamo anche bene, esatto. Ci sono dentro Giannulli, c'è dentro Elia Rosati, ci sono dentro diversi compagni e compagne di Lapsus, che anche loro fanno un lavorone notevole. C'è Elio, per esempio, un nostro caro amico che salutiamo. Ognuna di queste persone prenderà parte a questo simposio, diciamo. Il libro, se ve lo volete recuperare, è Dopo le bombe, Piazza Fontana e l'uso pubblico della storia, è di Mimesis, un'altra casa editrice che vi invitiamo, come dire, a sfogliare presto. E questo è uno. Poi ce n'è un secondo, che è venerdì invece. Sì, è il giorno dopo. Ok, quindi potete vederveli tutti e due. Esatto, meno male. Alle 18 sulla pagina Ampi Provinciale di Milano o su YouTube si parlerà sempre dello stato della strage 1969, i precedenti, le bombe, il contesto italiano internazionale. Cosa è successo? Cosa sappiamo? Come lo sappiamo? queste sono tutte cronache, trame di geopolitica, microstorie di apparati e di persone, ricostruzioni di colpe, di eroismi, singoli e collettivi, di ragioni di Stato e di ribellioni e meccanismi internali. L'autore Massimo Pisa ne discute con altri... saranno questi? Beh, allora uno è Enrico De Aglio e l'altro è Roberto Cenati, sicuramente, che è il segretario di Ampi Provinciale Milano. Cenati, scusate. Ce ne sono diversi in realtà di relatori, non li conosciamo tutti, chiediamo scusa a quelli che non conosciamo, però insomma questi due sono quelli più famosi. Tra l'altro nel frattempo io sotto mi sono permessa di mettere dell'ambient qua, nel senso che non riesco a pensare al 12 dicembre senza questa canzone e quindi un pochino la metto. Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. L'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Oh, come tutto vola così in fretta, risparmia gente tutto così in fretta. No, no, no, non si può dormire, la luna è rossa, rossa di violetta. Beh, questa canzone, cioè, è super mega storica, Luna Rossa della banda Bassotti, evidentemente. Chi non sta facendo finta di cantarla sgolandosi e o cantandola sgolandosi è una persona che mente. Esatto. E a questo punto tornerei all'ultimo incontro, diciamo, dedicato ai giorni precedenti, ma sempre dedicato al, come dire, ai giorni intorno al 12 dicembre. È un ultimo evento. Vai, Svezia, coadiuvami. Dovrebbe essere Pinelli, una storia. È una diretta online con l'autore Paolo Pasi. Questa è giovedì 10 alle 21, diretta sulla pagina Ampi Rescaldina e curarsi con i libri. Esatto, quindi in questo caso l'incontro è rispetto a un'altra figura, diciamo, protagonista, suo malgrado, della vicenda del 12 dicembre, che è quella di Pinelli. In realtà, appunto, vedremo, abbiamo tenuto questo anche se è la settimana successiva, perché il 15 ricorre la data della sua morte, del suo omicidio da parte della questura di Milano, lo diciamo lo stesso, anche se la questura continua a non rivendicarselo, ma è andata così, quindi insomma non possiamo fare della dietrologia. E a questo punto passiamo, come dire, a un po' alla ciccia, perché il 12 dicembre è prima di tutto il 12 dicembre, come dire, cioè, esatto. Ci, cioè, ci sono anche i giorni prima, ma c'è anche il 12 dicembre. Gli appuntamenti in particolare, diciamo, legati alla strage di Piazza Fontana sono due. Che hanno, secondo me, se posso permettermi, delle bellissime grafiche. Che hanno delle bellissime grafiche, mi ricordano delle altre grafiche. Non riesco a recuperare, ma come dire, mi ricordano delle altre grafiche. Io mi emoziono. Sì, Pica si emoziona. Facilmente, ma mi emoziono. Vai, dici che cosa succede allora, visto che sei così tutto... Praticamente, potete trovare tre, se non sbaglio, eventi su Facebook... E hanno similmente tutti la stessa grafica, con i colori molto diversi e anche degli sfondi diversi, però diciamo che il layout è molto simile tra loro, quindi sono facilmente riconoscibili. Piazza Fontana, non c'è futuro senza memoria, lezioni in piazza su una strage di Stato. Quindi il 12 dicembre, che almeno quello è un mio ricordo, ditemi se è falso o meno, è l'ultima volta che ci siamo visti in piazza prima del Covid, l'anno scorso, o sbaglio? A gennaio abbiamo fatto qualcosa insieme? Forse sì, però non saprei l'ultimo dire. Momento, diciamo, che per me è stata un'emozione, perché mi ricordo che l'anno scorso lavoravo tantissimo ed ero sparito per qualche mese, e il mio rientro nel riabbracciare i miei compagni e le mie compagne è stato in quella piazza lì del 12 dicembre dell'anno scorso. Beh, per fortuna è una piazza. Beh, poi l'anno scorso era anche il cinquantesimo anno. Esatto, quindi. Esatto. Quindi iniziamo con questo evento, che è dalle 14 alle 16 in Piazza Fontana, ed è appunto, vuole essere una lezione. L'evento recita queste parole: il 12 dicembre del 69 una bomba esplose in Piazza Fontana, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, provocando 17 morti e 88 feriti. Chi mise quella bomba? Chi ordinò l'attentato e perché? Fu un fatto isolato o invece un tassello di una precisa strategia? Chi è Pinelli e perché si dice che è stato suicidato? Perché è importante parlare della strage a 51 anni di distanza? Invitiamo studentesse e studenti a partecipare ad una lezione in piazza sulla strage di Piazza Fontana e sulla strategia della tensione, ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quegli anni, i contributi di storiche e giornalisti, letture di artisti e artiste. Tutti i collettivi sono invitati a preparare domande e condividere ragionamenti. Cosa insegna la storia di Piazza Fontana ai più giovani e alle più giovani? È interessantissimo, secondo me, questo lo momento. Lo è, dalle 14 alle 16 in Piazza Fontana, per gli studenti principalmente, ma in realtà non solo, per chiunque non abbia le idee chiare sulla cosa, e credo che sia assolutamente fondamentale. In realtà la giornata prosegue più avanti. La giornata prosegue perché... In realtà è anche anticipata da un altro evento, ma lo mettiamo dopo perché, è, come dire, questo era il focus 12 dicembre 69. Esatto. E quindi il secondo pezzo di giornata, se tu ben mi suggerisci, è il momento dedicato al ricordo delle vittime della strage di Stato e a Saverio Saltarelli. Saverio è morto il 12 dicembre del 70, quindi l'anno dopo, durante per l'appunto una manifestazione in cui venivano ribadite le responsabilità politiche di istituzioni e nuove destre rispetto alla strage di Piazza Fontana, e per l'appunto Saltarelli è morto giovanissimo durante questa manifestazione. La seconda parte, per l'appunto, dopo il momento di lezione in piazza che va dalle 14 alle 16, è composta da due momenti separati, ma uno di fianco all'altro, in cui non ci si può spostare perché il corteo non è previsto dal DPCM, ma evidentemente non esiste ancora il teletrasporto, quindi in una qualche maniera ci si andrà. Dalle 17.30 alle 18 c'è un momento in Piazza Fontana davanti alla ex Banca Nazionale dell'Agricoltura per ricordare le 17 vittime della strage di Stato. Dalle ore 18 e poco più alle ore 19 in via Bergamini, angolo via Larga, appunto in prossimità del luogo dove è stato assassinato Saverio Saltarelli, ci sarà un secondo momento di ricordo. Tutto questo per concludere, diciamo, il focus intorno a Piazza Fontana. Io non so se vogliamo mettere un altro qualche istante musicale, ma perché secondo me ne vale ma la pena. No? Ne vale la pena, ce ne sono parecchi, guarda, tua scelta, Frank Sinatra, fantastico. Frank Sinatra è un altro dei grandi compleanni di quest'anno, non mi ricordo il giorno, penso il 12 dicembre, sicuramente lui è del 15, volevo fare presente. Frank 12-12-15. Esattamente, questo in realtà è un suo pezzo che non è suo in quanto autore, ma in quanto esecutore, perché il pezzo in realtà è diventato famoso grazie a lui, ma non è suo. E Fly Me to the Moon, che è bellissima, in 17, è una crema. Guarda, in 17 versioni diverse, ma anche questa è veramente notevole. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Che crema. Rientriamo su Frank. Già. personaggio comunque un po' dubbio, lo diciamo, ma grande voce lo stesso, perché se no dobbiamo andare a recuperare un bel pezzo di... Non abbiamo tempo. Esatto, abbiamo... esattamente. A questo punto passiamo agli altri eventi dal vivo, perché come dicevamo all'inizio della puntata, finalmente si rinizia a, come dire, buttare il naso fuori di casa, e noi siamo entusiasti di questa cosa. Abbiamo parlato del 12, ma in realtà non sono le uniche date, come dire, per andare a buttare fuori un po' il vostro visino, ovviamente mascherinato, assolutamente distanziato da quelli intorno. In particolare, Sveva? Sì, parliamo di un evento che avverrà venerdì 11 dicembre alle 10 di mattina davanti alla prefettura di Milano in corso Monforte 31, fatto dalla CUB Immigrazione. E, diciamo che è stato chiamato Sanatoria 2020, vogliamo risposte subito, questo sarà lo slogan, immagino, più o meno. Lo è. Okay. E il 18 marzo 2020, che è il giorno della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il governo portoghese, guidato da Antonio Costa, dà il via libera a una sanatoria per le persone straniere prive di permesso o in attesa di rinnovo che avessero presentato la domanda. Questo evento si chiede cosa succede in Italia rispetto a ciò, cioè l'appello per una sanatoria generale è caduto nel vuoto momentaneamente. A giugno il governo ha dato avvio a una sanatoria che comprendeva solo le categorie delle colf, dei braccianti, come se, diciamo, il resto dei migranti e delle migranti non fossero professionalizzate per lavorare in altri settori. E dunque niente. E quindi si richiede il rilancio immediato del nulla osta e una, come dire, un ulteriore ragionamento, un ragionamento ben diverso da quello che è stato fatto fino adesso rispetto alle sanatorie e alla, come dire, la possibilità per gli immigrati e le immigrate di questo paese, che ai noi sono tantissimi, non tanto ai noi perché siano tanti gli immigrati, perché ne siamo ovviamente entusiasti, ma ai noi perché sono tantissimi quelli in una situazione estremamente precaria, e questo non è giusto per nessuno, e questo non fa bene a nessuno. Quindi CUB Immigrazione propone un presidio alle 10 di mattina di venerdì 11 dicembre. Ovviamente anche in questo caso valgono le regole del buon senso e dell'accortezza e della cura nei confronti di chi si è intorno, e quindi mascherine, distanziamento e attenzione a chi abbiamo intorno. Il 12 dicembre, lo dicevamo prima, c'è un altro evento, un'altra ricorrenza ai noi triste, soprattutto per la storia di questo quartiere, ma non solo in realtà, perché Gianfranco ha fatto tanto per tantissime persone, e come dire, lo si conosce al di qua e al di là dell'oceano, nel caso specifico. E insomma, il 12 dicembre dell'anno scorso ci lasciava Gianfranco, e ovviamente non è uscito dalla nostra memoria, dai nostri cuori, e quindi 12 dicembre alle ore 11 ci sarà un nuovo momento, un momento diverso da quelli a cui abbiamo fatto riferimento prima, quindi un momento precedente alle manifestazioni in Piazza Fontana. In questo caso ci si trova ai giardinetti di via Montegani, quindi qua vicino a Milano Sud, per chi non lo conoscesse, abbastanza vicino alla ZAM e alla fermata di Abbiategrasso Verde, e ci sarà, come dire, un momento conviviale di musica, di chiacchiere, di vicinanza nel distanziamento fisico. E tra le altre cose, se non erro, ci sarà anche un momento per rilanciare la sottoscrizione che era stata lanciata qualche tempo fa in favore della Casa della Salud Comunitaria di San Cristóbal de las Casas, in Chiapas, dove il buon Gianfranco aveva portato la sua lotta, la sua solidarietà, il suo entusiasmo per 7 anni, se non erro, era andata a fare l'insegnante lì, e insomma noi lo ricordiamo con un sacco di affetto affetto e siamo contenti di essere in piazza insieme a tanti e tante altre, siamo sicuri, alle 11 di sabato 12 dicembre del insomma di questa settimana. Ricordiamo che oggi è il 7 di dicembre, quindi a questo punto in realtà c'è un mini blocco che esula dalla settimana, completamente esula dalla settimana, ma perché in realtà così. È la settimana prossima, sono due eventi che avranno luogo il 14 e il 15, quindi lunedì e martedì, e ci sembrava giusto ricordarli per non essere un po' troppo sotto settimana prossima. Per tempo facciamo esattamente cose, esattamente, perché lunedì 14 dicembre è lo sciopero dei lavoratori essenziali della sanità, in particolare dei lavoratori del San Paolo e del San Carlo. E, insomma, ci saranno dei momenti sia mattutini che pomeridiani. Vi invitiamo a seguire prossimamente le pagine, insomma, la nostra sicuramente, quella di Collettivo ZAM, ma anche quella del Comitato in Difesa della Salute di Milano Sud-Ovest, nel senso che ci sarà occasione, modo e soprattutto bisogno di stare al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici della sanità, che in questo momento stanno facendo veramente i quadrupli salti mortali per, come dire, tappare tutti i buchi questa istituzione scellerata e questa privatizzazione massiccia della sanità ci sta portando. A questo punto io questo è il 14, ma il 15, esatto. Che cosa succede? Tanto per chiudere un po' la parentesi aperta prima, e il 15 ci sarà invece il momento per ricordare Giuseppe Pinelli e parimenti l'innocenza di Pietro Valpreda, che è stato un po', diciamo, utilizzato come capro espiatorio in maniera totalmente superflua e ingiustificata per svariato tempo. Gli appuntamenti li ricorderemo anche settimana prossima, ma saranno evidentemente nel pomeriggio, a partire dalle 5:30 e fino alle 8 e passa, direi, di martedì 15 dicembre del 2020. Fra le altre cose ci sarà anche la proiezione del film documentario Pino, vita accidentale di un anarchico. Giustamente, come dire, Pica fa delle faccette. Mi vengono gli occhi a cuoricino se ci penso. Esatto. Non l'ho ancora visto, tra l'altro. Salutiamo Tommaso Russi, protagonista del film, che abbiamo anche in quel periodo ci frequentavamo spesso, riuscivamo a vederci, mi diceva sempre: sono andato a fare le riprese del film su Pinelli, che figata, e alla fine non l'ho mai visto. Io spero il 15 di non lavorare, quindi sarà un giorno buono per rimediare alla non visione e guardare finalmente questo film. Ci sarà modo sicuramente. Adesso a questo punto io ti direi, possiamo mettere 30 secondi di un qualcosina, quello che ti pare, guarda. L'ho già selezionato. Vai, buttala. Io lo so, io vi vedo che ballate. Madonna. In casa, vi muovete tutti e tutte. Ma io già molto, i primi, molto suadenti. Ma già i primi sei secondi, questo era Sinéad O'Connor, uno dei volti della, come dire, della mia infanzia, con quella sua rasata a zero e la foto del Papa stracciata. Te la ricordi? Certo, ovvio. domani è il compleanno di Sinead O'Connor, fate gli auguri, fa 54 anni. E ciao Sinead, sappiamo che ha avuto un po' di problemi di salute, tra l'altro mandiamo un abbraccio perché ha avuto qualche sbattimento di traverso abbastanza grave. E a questo punto siamo alla postilla. Siamo alla postilla. Siamo alla postilla. La proverò a leggere come si leggono nelle pubblicità dei prodotti da farmacia. Il libretto dietro, è presente? Sì. No, vabbè, diamogli sempre lo spazio che deve, perché la prossima è sul palinsesto di Radio ZM. Riprendiamo con questo palinsesto perché noi sembra che non andiamo mai in onda, invece siamo sempre in onda. Bravo, e leggero. Questa settimana è molto gozza perché stiamo ancora cercando di capire dove collocare il nuovo DJ set di Franco. Madonna, che sta ospitando tra l'altro un nuovo format che è un featuring, quindi la prima puntata è Franco con sua mamma che ha partecipato, adesso invece è Franco con Franca. Vabbè, ci sta proponendo questa cosa. Tra l'altro featuring, perché è un mix fra featuring e il fatto che arriva fra un po', quindi nel futuro. Esatto, featuring, esattamente, esattamente. E stiamo cercando anche di capire dove collocare la nuova puntata di Pillole di Ecologia, perché c'è anche quella. Ma mentre invece sappiamo perfettamente che mercoledì andrà in onda Zona Rossa, questa volta alle 20:30, quindi un po' di meno che preparati i telefoni, sempre se Guglielmo non affoga nella sua inutilità e mi pacca, ma non penso. E giovedì 10 dicembre la costola, perché io questa cosa sono veramente emozionatissima, la costola di Up Underground Pusher, cioè Up Talk, il nuovo format che è stato lanciato, il primo video format di Radio ZM. Bravo. Che potete trovare nei nostri podcast, la radiovisione. Il 10 dicembre alle 19:30 sarà in diretta con i DSA Commando e con Ice One. Raga, piango. Cioè, nel senso, i DSA e Sebi nella stessa puntata, già, cioè, considerato il pezzone che hanno fatto, mi verrebbe da abbracciarli tutti. Ma lo sforzo di aver messo sulla radio solo per questo giorno qua, praticamente. Esatto, vale esatto. Solo per questo giorno. Andiamo avanti, oggi ho beccato un evento che non vedevo da un po' e sono molto contento perché torna finalmente la seconda stagione di Beccati, che è un format della 232 APS, che è un'associazione del nostro amico Cesa, che salutiamo. E da martedì 8 a martedì, scusate, da martedì 8 al 12, che non so se è... No, penso che sia da martedì sabato. 8 martedì dicembre, sabato. In verità, verosimilmente. Comunque il punto 12. Secondo me hanno... a caricare le puntate sul canale YouTube del 232 della PS, quindi seguiteli sul canale YouTube. Sì, questo perché Beccati è una rubrica di interviste che preparano i ragazzi della 232, che è appunto una associazione di promozione sociale, e volta con i ragazzi del carcere minorile di Beccaria, insieme a ovviamente gli educatori, gli operatori della 232. Quindi noi gli mandiamo un abbraccio e spingiamo anche loro. Ma alla fine di tutto questo io mi sono resa conto che malamente noi non abbiamo mai fatto del sano endorsement. Giusto, si dice così, giusto. Si dice così. Segnatevi endorsement. Questa parola nuova. È una parola nuova se non avete mai detto niente in inglese, ma se comunque ok, va bene, è un featuring. No, perché noi in realtà siamo una radio di poche pretese, ma c'è chi prima di noi ha fatto la storia, e quindi l'ultima cosa che noi andiamo a raccontare è che è aperto ormai agli sgoccioli, perché finisce a fine dicembre su Produzioni dal Basso con il nome Salva il Gatto Nero, Sostieni Radio Andadurto. C'è il crowdfunding per Radio Andadurto, che è una storica ormai dall'85 emittente che trasmette da Brescia e ormai anche da Milano. È una radio di compagni che come dire, propone sempre un sacco di ottime cose, e ed è una radio che evidentemente da tempo immemore fonda, fra le altre cose, la sua nel frattempo qua c'è della violenza esplicita all'interno della radio. No, comunque, scherzi a parte, è una radio che da tempo ormai organizza un festival, che è il festival di Radio Andadurto di agosto a Brescia, anche come metodo per autofinanziarsi. Evidentemente quest'anno come dire, la 29esima festa di Randen d'Urto, dico 29esima, non so se capiamo la grandezza anche di questo numero, non si è potuta fare a causa della pandemia. E questo mette seriamente in difficoltà le casse e le, come dire, di Radio Onda d'Urto, che senza risorse economiche non è sicura di poter garantire un altro anno di trasmissioni. Arriviamo un po' appunto all'ultimo, perché in realtà la campagna finisce fra poco meno di un mese. Sono già stati raccolti comunque dei bei soldini, sono già stati raccolti 25.000 euro, si punta almeno a 30.000 euro, quindi tutti e tutte coloro che hanno passato del tempo, hanno ascoltato dell'ottima musica all'interno del festival di Radio Onda d'Urto, che si sono sintonizzati sulle loro frequenze e che non l'hanno ancora fatto, ma raga fatelo perché ne vale veramente la pena. Mi raccomando, crowdfunding in scadenza a fine dicembre, mettetevi una manina sulla coscienza e un'altra sul portafoglio. Produzioni dal basso, salva il gatto nero, sostieni Radio Onda d'Urto. E viva le radio libere, e viva le radio antifasciste, antisessiste e femministe, mi raccomando. Questo è un avvertimento. Allora, io direi, mettiamo tutta la musica che non abbiamo messo. Ah no, scusa, possiamo fare un compleanno, un augurio importante, perché ce n'è uno particolarissimo questa settimana. Cioè l'11-12, che poi è stato mutuato nel 13-12 per evidenti affinità calendaristiche, però insomma l'11-12 del 2012, ormai 8 anni fa, nasceva in via Olgiati, perché allora ZAM era ancora nella sua prima sede in via Olgiati, e lo ZAM Pop Lab. E io piango tantissimo. E quindi quest'anno facciamo 8 anni, raga. Non abbiamo ancora deciso esattamente che cosa faremo per festeggiare, ma qualcosina si farà di sicuro. Quindi rimanete sintonizzati. Rap Caverna Post e ZAM Pop Lab sono rispettivamente 7 e 8 anni di vita. E io non potrei che essere, cioè veramente non potrei più essere più fiera di così, quindi direi che l'ultimo pezzo lo dedichiamo a loro. Assolutamente. Pappero, sì, e poi in fila però in mettiamo fila, mettiamo, allora dillo. Chi non abbiamo nominato oggi? Non abbiamo nominato Tom Waits. Per dire. Che nasce oggi. Oggi, quindi del 49. Auguri, esatto. E abbiamo selezionato Blue Valentine. Non abbiamo nominato Alan Sorrenti. Pezzone, raga. Figli delle stelle, il 9 dicembre del 50. Alan Sorrenti. Nominalo tu. Brian Molko, del cantante e, come dire, frontman dei Placebo. Hai scelto la mia traccia preferita. Altro gruppo che ha fatto la nostra adolescenza. Un altro che ci tengo personalmente a dire io, che è Mos Def, che quest'11 di dicembre in concomitanza con lo ZAM Pop Lab non è un caso, è un caso ma non è un caso. Cioè Mos Def compie i suoi primi 47 anni, madonna, 47 anni. 47. E come ultimo, se il 13-12, in questa data un po' ACAB, nel 54 del 13-12, cioè nel 13-12 del 54 nasceva Steve Forbert, che è meno conosciuto dai più giovani, ma in realtà vale comunque la pena. E quindi in realtà metteremo ognuna di queste tracce in seguito, ma come prima mossa metteremo Aurora della Rap Caverna Post, che peraltro, già che ci siamo, era effettivamente la traccia che la Rap Caverna Post ha fatto uscire in concomitanza del 25 aprile di quest'anno e che ha presentato per la prima volta a POQ Online, che se non avete visto comunque ripigliatevi. È stato fatto pure questo. Ripigliatevi nel senso che riprendetelo su YouTube, ma anche che ripigliatevi, che cazzo state facendo voi il 25 aprile, scusate. Grazie Sveva, grazie Pesce, grazie Chiara. Ciao raga, grazie Pica. Finisce qua. Buon compleanno. Aurora, tutta per voi. Buona settimana. Yeah. Yeah.